13 di un giovedì di un 29 giugno, oggi ho la mia vita stretta in pugno, mentre assisto ad allarmismi nei tupica 12, il mondo è finito, già prima del 2012, il ciclo si chiude, noi ragazzi cronici, manda a fanculo, cazzari, droghe ed alcolici, ormai da anni, gli amici periodici, usando rime vecchie e doppi sensi ironici, dal 2010 che regalo pezzi unici, in free download, altro che prezzi monici. Senza metrica né flow, senza un cazzo di stile, terzo album in 3 anni, con questo metto la parola fine, chi disprezza compra, ma io ve lo regalo, e ancora in free download, quest'ultimo ricamo, chiedendomi se passerò anche st'esame, il compito non solo, testa chi da studio un voglio ancora fame. Prendi questo disco come testamento, la trilogia che racconta di ogni mio lamento, la scioglierina che ha apprezzato ogni momento, questi beat a chi continuerò a non tenere lo spento. Esaudisco ogni desiderio sul mio disco, sono nessuno ormai da anni, lo ribadisco, faccio quel che faccio, a mio se consumo, io me la rimo, me la canto e nel mio stereo me la suono, è come il teorema di Dio, o ci credi o non ci credi, io lo faccio a modo mio, per fortuna conservo il blocco dello scrittore, altrimenti posterei un album ogni 24 ore, tu continua ad ascoltare, Rossi e Ferro, questo è quello, è tutto ciò che passa in radio, lavaggio del cervello, quindi basta, ora sono dentro gli anda, per 39 mi sono cospasso il capo d'acqua sana, invecchiato 40 anni, come un ottimo rum, e lo che mando giù, come Lady D, faccio boom boom. Con le rime che regalo nei miei album, questa volta più che mai sono un ultimatum. Prendi questo disco come testamento, la trilogia che racconta di ogni mio lamento, la scioglierina che ha apprezzato ogni momento, questi beat a chi continuerà a non tenerlo spento. È bello vedervi imitare i grandi, io non ci sono mai riuscito eppure ne conosco, sapessi quanti, a quest'età mi sento ancora più pivello, se penso a sti pagliacci, supereroi senza mantello, che se la tirano come Lady Gaga, è il mio terzo album e in giro nessuno mi caga. Ed anche se la musica non paga, io cago quest'ultimo pezzo che chiude la saga, aggiornando un palmarès di tutto riguardo, io rimango Ness e questo è il prossimo traguardo. Se lo fai 3 volte sei considerato un serial killer, è vero, forse parto col mio prossimo bestseller, posso fare un disco all'anno e ve l'ho dimostrato, postarlo in free download senza essere ringraziato. Prego, fotti un cazzo se non l'hai scaricato, di Yellow Wisp, questa è la legge del mercato. Prendi questo disco come testamento, la trilogia che racconta di ogni mio lamento, la scioglierina che ha apprezzato ogni momento, questi beat a chi continuerà a non tenerlo spento. Siamo agli sgoccioli, la traccia suona, l'ultima rima in onore del microfono, ti staccherò la spina, i titoli di coda, quelli di un videogioco, metto a riposo anche la puntina, fine del gioco. Game over.